Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. Eravamo contenti. Passammo i mesi di gennaio e di febbraio e l'inverno fu molto bello e noi eravamo molto felici. C'erano stati brevi disgeli quando il vento soffiò caldo e la neve si ammorbidì e l'aria pareva di primavera, ma sempre il freddo limpido e duro era ricominciato ed era ritornato l'inverno. A marzo venne la prima interruzione dell'inverno. Durante la notte cominciò a piovere. Piovve tutta la mattinata e trasformò la neve in fanghiglia e rese melanconico il fianco della montagna. C'erano nuvole sul lago e sulla valle. Pioveva in alta montagna. Catherine aveva sopra scarpe pesanti e io gli stivaletti di gomma del signor Göttingen e andammo alla stazione sotto un ombrello attraverso la fanghiglia e l'acqua corrente che stava spazzando il ghiaccio dalle strade per fermarci al caffè a prendere un vermouth prima di colazione. Fuori sentivamo la pioggia. «Credi che dobbiamo spostarci in città?» «Così ti pare?» chiese Catherine. «Se l'inverno è finito e la pioggia continua non sarà più divertente quassù. Quanto manca la piccola Catherine?» «Pressa poco un mese, forse un po' di più. Potremo scendere e stabilirci a Montreux.» «Perché non andiamo a Losanna? È lì che c'è l'ospedale.» «Bene, ma pensavo che forse è una città troppo grande. Possiamo stare soli anche in una città più grande. E Losanna deve essere bella. Quando andiamo?» «Non importa, quando vuoi, caro. Non voglio andarmene di qui, se non vuoi. Guardiamo come si mette il tempo.» Piove per 3 giorni. La neve ora era tutta scomparsa sul fianco della montagna sotto la stazione. La strada era un torrente di neve fangosa. C'era troppa umidità e fanghiglia per uscire. Al mattino del 3° giorno di pioggia decidemmo di andare in città. «Va bene, signor Henry», disse Göttingen. «Non è necessario che mi diate il preavviso. Non pensavo che rimaneste, ora che è venuto il brutto tempo. Comunque dobbiamo essere vicini all'ospedale per via di Madame», dissi. «Capisco», disse. «Avete intenzione di ritornare col bambino?» «Sì, se avrete posto. Potreste ritornare a primavera, quando sarà bello, e godervelo. Possiamo mettere il bambino e la bambinaia nella sala che ora è chiusa e lei e Madame potreste avere la stessa stanza che guarda il lago.» «Scriverò prima di venire», dissi. Facemmo le valigie e partimmo col treno del pomeriggio. I Göttingen ci accompagnarono alla stazione e portarono giù il bagaglio su una slitta nella fanghiglia. Si fermarono vicino alla stazione nella pioggia salutandoci con le mani. «Erano molto cari», disse Catherine. «Erano molto gentili con noi.» Prendemmo il treno per Losanna da Montreux. Guardando dal finestrino il luogo dove avevamo vissuto, non si riuscivano a vedere le montagne per via delle nuvole. Il treno fermò a Vevey, poi proseguì oltrepassando il lago da una parte e dall'altra i bui campi e i boschi spogli e le case bagnate. Arrivammo a Losanna e andammo in un albergo di media categoria. Pioveva ancora mentre passavamo per le strade e nel portone da carrozze dell'albergo. Il portiere con le chiavi d'ottone sui risvolti, l'ascensore, i tappeti sui pavimenti e i lavabi bianchi con gli impianti luccicanti, il letto d'ottone, la grande camera da letto comoda, tutto parve un grande lusso dopo i Göttingen. Le finestre della stanza davano su un giardino bagnato cintato da un muro che terminava in una ringhiera di ferro. Di là della strada, molto ripida, c'era un altro albergo con un muro e un giardino simile. Guardai la pioggia cadere nella fontana del giardino. Catherine accese tutte le luci e incominciò a disfare i bagagli. Ordinai un whisky e soda e mi sdraiai sul letto a leggere i giornali che avevo comprato alla stazione. Era il marzo del 1918 e l'offensiva tedesca era incominciata in Francia. Bevevo whisky e soda e leggevo mentre Catherine disfaceva i bagagli e girava per la stanza. «Sai che cosa devo comprare, caro?» «Che cosa?» «Vestiti da bambino. È difficile arrivare a questo punto senza vestiti da bambino. Puoi comprarli? Lo so, è quello che farò domattina. Mi informerò di quello che occorre. Dovresti saperlo, eri infermiera. Ma c'erano così pochi soldati ad avere bambini in ospedale. C'ero io. Mi colpì col cuscino e rovesciò whisky e soda. «Te ne ordinò un altro», disse. «Mi dispiace di avertelo rovesciato. Non ce n'era quasi più. Su, vieni a letto. No, devo cercare di fare sembrare qualcosa, questa stanza. Sembrare che cosa? La nostra casa. Attacca le bandierine alleate. Oh, stai zitto. Dillo di nuovo. Stai zitto. Lo hai detto con tanta cautela», dissi, «come se volessi non offendere qualcuno. Non voglio, infatti. Allora vieni a letto». «Bene». Si avvicinò a sedere sul letto. «So che non ti piaccio, caro. Sono come un grosso barile di farina. No, non è vero. Sei bella e cara. Sono solo un brutto coso che tu hai sposato. No, non è vero. Sei sempre più bella. Ma tornerò magra, caro. Sei magra adesso. Hai bevuto soltanto un whisky e soda. Eccone un altro che viene», disse, «e poi potremmo farci portare sulla cena. Ma una buona idea. Poi non usciamo, vero? Staremo a casa stasera. A giocare», dissi. «Berrò un po' di vino», disse Catherine. «Non mi farà male. Forse riusciamo a trovare un po' del nostro Capri bianco». «Certo che ci riusciremo», dissi. «In un albergo di questa categoria hanno certo i vini italiani». Il cameriere bussò alla porta, portò il whisky in un bicchiere col ghiaccio e vicino al bicchiere sul vassoio una bottiglietta di soda. «Grazie», disse. «Mettila lì. Per favore, facci portare due cene e due bottiglie di Capri bianco secco in ghiaccio. Desiderano incominciare la cena con la minestra? Vuoi minestra, Kate?» «Sì, per favore. Porta la minestra per uno». «Grazie, signore». Uscì e chiuse la porta. Io ritornai ai giornali e alla guerra nei giornali e versai lentamente la soda sul ghiaccio nel whisky. Avrei dovuto dire che non mettessero ghiaccio nel whisky. Far portare whisky separatamente, così si poteva vedere quanto whisky c'era e non sarebbe stato troppo allungato all'improvviso con soda. Mi sarei comprato una bottiglia di whisky e mi sarei fatto portare il ghiaccio e soda. Questa era una soluzione di buon senso. Il buon whisky è molto piacevole. È una delle parti piacevoli della vita. «A che cosa pensi, caro? Al whisky?» «Whisky come?» «Che è una bella cosa». Catherine fece una smorfia. «Bene», disse. Rimanemmo in quell'albergo 3 settimane. Non era male. La sala da pranzo di solito era vuota e per più la sera mangiavamo in camera. Andavamo a spasso per la città e scendevamo in funicolare a Ouchy e passavamo lungo il lago. Il clima si intiepidì ed era come primavera. Avremmo voluto ritornare in montagna, ma la primavera durò pochi giorni e poi ricominciò il rigore crudo della fine dell'inverno. Catherine comprava le cose di cui aveva bisogno per il bambino su in città. Io andavo in palestra sotto i portici ad allenarmi alla box. Di solito vi andavo al mattino, mentre Catherine rimaneva a letto fino a tardi. Nei giorni di falsa primavera era molto bello, dopo la box e una doccia, camminare nelle strade annusando la primavera nell'aria e fermarsi in un caffè e sedersi a guardare la gente, leggere il giornale e bere il vermouth. Poi scendere in albergo e fare colazione con Catherine. Il professore della palestra di box aveva i baffi ed era molto preciso e saltellante, andava in pezzi se lo si attaccava, ma era bello in palestra. L'aria e la luce erano buone e lavoravo sodo, saltando sulla corda, allenandomi allo specchio, facendo esercizi addominali disteso sul pavimento in una macchia di luce che entrava dalla finestra e qualche volta spaventando il professore quando si tirava di box. Le prime volte non riuscii a esercitarmi allo specchio, davanti al lungo specchio stretto, perché mi pareva così strano vedere tirare di box un uomo con la barba. Ma alla fine pensai soltanto che era buffo. Avrei voluto tagliarmi la barba appena incominciai a fare la box, ma Catherine non mi lasciò. A volte Catherine e io andavamo a fare qualche passeggiata in carrozza in campagna. Era bello in carrozza, quando i giorni erano sereni e trovavamo 2 bei posti dove potevamo fermarci a mangiare. Ora Catherine non poteva più camminare molto e mi piaceva andare in carrozza con lei nelle strade di campagna. Quando era una bella giornata passavamo ore splendide e non ci fu mai tra noi una nube. Sapevamo ormai che il bambino era molto vicino e questo ci dava la sensazione come se qualcosa ci incalzasse e non potessimo più perdere tempo insieme. Take us exactly where we most likely need to be. Una mattina mi svegliai verso le 3 sentendo Catherine che si agitava nel letto. Come stai, Cat? Ho avuto qualche dolore, caro. Regolari? No, non molto. Se diventano regolari andiamo in ospedale. Avevo un gran sonno e mi riaddormentai. Poco dopo mi svegliai di nuovo. Forse è meglio che tu chiami il dottore, disse Catherine. Credo che ci siamo. Andai al telefono e chiamai il dottore. Ogni quanto vengono i dolori? Chiese. Ogni quanto vengono, Cat? Credo ogni quarto d'ora. Allora è meglio che andiate all'ospedale, disse il dottore. Mi vesto e ci vado subito anch'io. Attaccai il ricevitore e chiamai il garage della stazione perché mi mandasse un taxi. Per molto tempo non rispose nessuno. Poi finalmente trovai uno che promise di mandarmi subito un taxi. Catherine si stava vestendo. La valigia con tutte le cose necessarie in ospedale e la roba del bambino era già pronta. Fuori in corridoio suonai per l'ascensore. Nessuno rispose. Scesi a basso. Non c'era nessuno sotto, tranne la guardia di notte. Portai io stesso l'ascensore di sopra. Vi misi dentro la valigia di Catherine. Lei entrò e scendemmo. La guardia di notte ci aprì la porta e sedemmo fuori sulle lastre di pietra accanto ai gradini che conducevano al viale ad aspettare il tassì. La notte era limpida e piena di stelle. Catherine era molto agitata. Sono così contenta che sia incominciato. Ora, tra poco, sarà tutto finito. Sei una brava ragazza coraggiosa. Non ho paura. Però vorrei che il tassì arrivasse. Lo udimmo salire la strada e vedemmo i fari. Svoltò nel viale e aiutai Catherine a entrare e il meccanico mise la valigia davanti. Andiamo all'ospedale, dissi. Uscimmo dal viale e ci avviammo sulla collina. Alla porta c'era una donna che scrisse il nome, l'età, l'indirizzo, la paternità e la religione di Catherine in un libro. Catherine disse che non aveva religione e la donna tirò una linea nello spazio dietro questa parola. Si denunciò come Catherine Henry. Ora la conduco in camera sua, disse. Salimmo in ascensore. La donna lo fece fermare e uscimmo e la seguimmo in un corridoio. Catherine si teneva stretta al mio braccio. Questa è la stanza, disse la donna. Vuole per favore spogliarsi e mettersi a letto. Ecco la camicia da notte. Ho la mia camicia da notte, disse Catherine. È meglio che si metta questa, disse la donna. Uscii e sedetti su una seggiola in corridoio. Ora puoi entrare, disse la donna della porta. Catherine era distesa in un lettino stretto e aveva una camicia semplice tagliata ad angoli retti che pareva fatta da un lenzuolo grezzo. Mi sorrise. Ora ho dei bei dolori, disse. La donna le teneva il polso e registrava i dolori con un orologio. Questo è stato grosso, disse Catherine. Glielo vidi in viso. Dov'è il dottore? Chiesi alla donna. Giù che dorme. Verrà qui appena necessario. Ora devo fare qualcosa a Madame, disse l'infermiera. Per favore, vuole tornare fuori un momento? Uscii in corridoio. Era un corridoio lungo con 2 finestre e tutte le porte chiuse. Odorava di ospedale. Sedetti sulla seggiola e guardai il pavimento e pregai per Catherine. Può entrare, disse l'infermiera. Entrai. Hello, caro, disse Catherine. Come va? Sono molto frequenti adesso. Il viso le si contrasse. Poi sorrise. Questo era molto forte. Vuole mettermi di nuovo la mano dietro la schiena, infermiera? Se può aiutarla, disse l'infermiera. Tu vai, caro, disse Catherine. Va a mangiare qualcosa. L'infermiera dice che può durare un pezzo, così. Il primo parto di solito è lungo, disse l'infermiera. Ti prego, va a mangiare qualcosa, disse Catherine. Sto bene. Davvero? Mi fermo ancora un momento, dissi. I dolori vennero molto regolarmente, poi diminuirono. Catherine era molto agitata. Quando i dolori erano forti li chiamava buoni. Quando incominciarono a calare fu delusa e umiliata. «Vai, caro», disse, «credo che non fai altro che rendermi autocosciente». Il viso le si tese. «Ecco, questo era meglio. Vorrei tanto essere una buona moglie e avere questo bambino senza tante storie. Per favore, va a fare colazione, caro, e poi ritorna. Non mi mancherai, l'infermiera è splendida». «Ha tutto il tempo che vuole per la colazione», disse l'infermiera. «Allora vado. Ciao, tesoro». «Ciao», disse Catherine. «E mangia bene anche per me». «Dove posso fare colazione?» chiesi all'infermiera. «C'è un caffè nella piazza in fondo alla strada», disse. «Dovrebbe essere aperto». Fuori stava diventando chiaro. Scesi la strada vuota fino al caffè. C'era una lampada alla finestra. Entrai, mi fermai al bar di zinco e un vecchio mi servì un bicchiere di vino bianco e una brioche. La brioche era del giorno prima. La inzuppai nel vino e poi bevvi un bicchiere di caffè. «Cosa fa qui a quest'ora?» chiese il vecchio. «Mia moglie sta partorendo all'ospedale». «Oh, tanti auguri. Dammi un altro bicchiere di vino». Lo versò dalla bottiglia versandone un poco in modo che un po' scorse sullo zinco. Bevvi questo bicchiere, pagai e uscii. Fuori per la strada c'erano le pattumiere delle case che aspettavano lo spazzino. Un cane stava annusando una pattumiera. «Cosa vuoi?» chiesi e guardai nella pattumiera per vedere se c'era qualcosa che potessi prendere per lui. In cima non c'erano altro che fondi di caffè, polvere e qualche fiore secco. «Non c'è niente, cane», dissi. Il cane attraversò la strada, salì le scale dell'ospedale fino al piano dove era Catherine e scesi il corridoio fino alla sua stanza. Bussai alla porta. Nessuno rispose. Aprii la porta. Nella stanza non c'era che la valigia di Catherine su una seggiola e la sua vestaglia appesa a un gancio sulla parete. Andai su e giù in corridoio in cerca di qualcuno. Trovai un'infermiera. «Dov'è Madame Henry?» «Una signora è stata portata proprio adesso nella sala da parto». «Dov'è?» «L'accompagno». Mi condusse fino alla fine del corridoio. La porta della stanza era socchiusa. Vidi Catherine, distesa su un tavolo, coperta da un lenzuolo. L'infermiera era da una parte e il dottore dall'altra, accanto a qualche cilindro. Il dottore reggeva una maschera di gomma attaccata a un tubo. «Le do un camice, in modo che possa entrare», disse l'infermiera. «Entri qui, per favore». Mi fece indossare un camice bianco e lo fissò alla nuca con uno spillo di sicurezza. «Ora può entrare». Entrai nella stanza. «Hello, caro», disse Catherine con voce forzata. «Non sto combinando granché». «Lei è il signor Henry?» chiese il dottore. «Sì». «Come vanno le cose, dottore?» «Le cose vanno molto bene», disse il dottore. «Siamo venuti qui perché è facile dare l'etere per i dolori». «Lo vorrei adesso», disse Catherine. Il dottore le mise la maschera di gomma sul viso, girò un quadrante e guardai Catherine respirare profondamente e rapidamente. Poi respinse la maschera e il dottore chiuse il galletto. «Non era molto forte, ne ho avuto uno molto forte poco fa. Il dottore mi ha aiutato a uscirne, vero dottore?» Aveva una voce strana, si alzava sulla parola «dottore». Il dottore sorrise. «Lo vorrei di nuovo», disse Catherine. Si strinse la gomma sulla faccia e respirò in fretta. La udii gemere un poco. Poi respinse la maschera e sorrise. «Questo era grosso», disse. «Era proprio grosso. Non preoccuparti, caro. Vai, vai via, vai di nuovo a mangiare». «Rimango», dissi. Eravamo andati in ospedale verso le 3 del mattino. A mezzogiorno Catherine era ancora in sala. I dolori erano di nuovo diminuiti. Aveva l'aria molto stanca e sfinita, ma era ancora allegra. «Non sono buona a niente, caro. Mi dispiace tanto. Pensavo che sarebbe stato così facile. Ora, eccone uno». Tese la mano a prendere la maschera e se la tenne sulla faccia. Il dottore mosse il quadrante e la sorvegliò. Finì in un momento. «Non era granché», disse Catherine. Sorrise. Sono pazza per l'etere. È magnifico. Ne porteremo un po' a casa, dissi. Eccone uno, disse Catherine in fretta. Il dottore girò il quadrante e guardò l'orologio. Qual è l'intervallo adesso? Disse. Un minuto circa. Non fa colazione? Tra poco, disse. Deve mangiare qualcosa, dottore, disse Catherine. Mi dispiace di impiegare tanto tempo. Non può darmi l'etere mio marito? Se vuole, disse il dottore. Bisogna metterlo sul 2. Capisco, dissi. C'era un indicatore su un quadrante che si girava con una maniglia. Adesso, disse Catherine. Si tenne la maschera stretta sul viso. Girai il quadrante sul numero 2 e quando Catherine posò la maschera, tornai a spostarlo. Era molto gentile da parte del dottore lasciarmi fare qualcosa. Lo hai fatto tu, caro? Chiese Catherine. Mi accarezzò il polso. Certo. Sei così bello. Era un po' ubriaca di etere. Io mangerò su un vassoio nella stanza vicina, disse il dottore. Potete chiamarmi in qualsiasi momento. Mentre il tempo passava, lo guardai mangiare. Poi, dopo un po', lo vidi sdraiato a fumare una sigaretta. Catherine era molto stanca. Credi che riuscirò ad averlo, questo bambino? Chiese. Sì, si capisce. Mi sforzo più che posso. Spingo in giù, ma se ne va. Eccolo. Dammi. Alle 2 uscii a fare colazione. C'era poca gente nel caffè. Seduta col caffè e i bicchieri di Kershaw, Mark, sulle tavole. Sedetti a un tavolo. Posso mangiare? Chiese un cameriere. È passata l'ora della colazione. Ma non c'è niente di pronto a tutte le ore. Posso darle una choucroute? Dammi choucroute e birra. Mezza o intera? Mezza chiara. Il cameriere portò un piatto di sauerkraut con una fetta di prosciutto in cima e una salsiccia sepolta nel cavolo caldo inzuppato di vino. Mangiai e bevvi la birra. Avevo molta fame. Guardai la gente ai tavoli del caffè. A un tavolo stavano giocando a carte. Due uomini al tavolo vicino al mio parlavano e fumavano. Il caffè era pieno di fumo. Dietro al bar di zinco dove avevo fatto colazione c'erano adesso 3 persone. Il vecchio, una donna grassa vestita di nero seduta dietro al banco che teneva nota di tutto ciò che veniva servito ai tavoli, e un ragazzo col grembiule. Mi chiesi quanti figli avesse la donna e come le era andata. Finita la choucroute, ritornai in ospedale. Ora la strada era tutta pulita. Non c'erano pattumiere fuori. La giornata era nuvolosa, ma il sole si sforzava di uscire. Salii in ascensore, uscii e scesi il corridoio fino alla camera di Catherine, dove avevo lasciato il camice bianco. Me lo misi e lo appuntai alla nuca. Mi guardai allo specchio e mi vidi come un falso dottore con la barba. Scesi il corridoio fino alla sala. La porta era chiusa e bussai. Nessuno rispose, così girai la maniglia ed entrai. Il dottore era seduto accanto a Catherine. L'infermiera stava facendo qualcosa all'altra estremità della stanza. «Ecco suo marito», disse il dottore. «Oh, caro, oh, il dottore più straordinario del mondo», disse Catherine con voce molto strana. «Mi racconta le storie più straordinarie del mondo e quando il dolore è troppo forte mi toglie completamente di conoscenza». «Straordinario! Lei è straordinario, dottore!» «Sei ubriaca», dissi. «Lo so», disse Catherine, «ma non dovresti dirlo». Poi, «Dammi!» Afferrò la maschera e respirò un breve respiro ansante, facendo ticchettare il respiratore. Poi diede un lungo sospiro e il dottore tese la mano a sinistra e alzò la maschera. «Questo era molto grosso», disse Catherine. Aveva una voce molto strana. «Non morirò più, caro. È passato quando dovevo morire. Sei contento?» «Non farlo tornare più». «No, ma non ho paura. Non morirò, caro». «Non farà una stupidaggine simile», disse il dottore. «Vuole morire e lasciare suo marito?» «No, no, non morirò. Non posso morire. È stupido morire. Eccolo. Dammi». Dopo un po' il dottore disse: «Esca un momento, signor Henry. Vorrei visitarla. Vuol vedere come mi comporto?» disse Catherine. «Puoi ritornare dopo, caro. vero dottore? Sì, disse il dottore, la manderò a chiamare quando può tornare. Thank you.